L'audio che ci andiamo ad ascoltare ora riguarda il libro Punk 1977-2022, Poster e disegni di Cristiano Rea, a cura di Federico Guglielmi, uscito per la Goodfellas Edizioni. Costa 22 euro, sono 224 pagine con inserti a colori, visto che è un libro pieno anche di immagini, oltre all'intervista a Cristiano Rea. All'interno troverete anche dei contributi, tra cui la prefazione di Zero Calcare e tutta una parte dedicata sia al Wonna Club che alla stagione dei centri sociali, scritta da Valerio Lazzaretti. Ora ci andremo ad ascoltare in ordine un contributo di Michele Rec in arte Zero Calcare, poi andremo ad ascoltarci Massimo Roccaforte, curatore di Goodfellas Edizioni, e infine Cristiano Rea, che abbiamo intervistato per Radio Onda Rossa. Io sto un po' in difficoltà a parlare di Cristiano Rea perché ho un rapporto da fan, proprio tipo degli adolescenti che stanno in fissa con un artista che mi porto appresso appunto in realtà esattamente da quell'età, da quando in realtà non sapevo manco chi fosse Cristiano Rea, nel senso che io sono cresciuto a Roma e vedendo sui muri di Roma, sui muri degli spazi occupati, penso al Forte Prenestino, alle locandine che erano attacchinate sulle pareti, per esempio della serigrafia o in altri spazi, comunque io vedevo questi disegni che poi ritrovavo anche dentro ai libri, penso al libro forse che stampò Radio Onda Rossa stessa di Roberto Perciballi sui Bloody Riot, con dentro un apparato fotografico in cui comparivano questi disegni che per me erano oggettivamente fighissimi, nel senso che erano una sintesi incredibilmente elaborata del bilanciamento tra bianchi e neri, che coglieva delle figure che non erano rappresentate nell'immaginario grafico che io avevo a disposizione, nel senso che io me leggevo i fumetti, magari mi compravo anche libri di illustrazione, eccetera, e ci stavano i supereroi, i paesaggi, le cose, eccetera, però tutto quel mondo del punk, le creste, i capelli a punta e quant'altro, le borchie, non aveva una sua rappresentazione grafica dignitosa, ce l'aveva con pochissimi artisti che sono quelli che poi stanno nel pantheon sostanzialmente di questo mondo qua, che sono, non lo so, penso a Rick Droger, Seth Topukhman, uno, oppure anche lo stesso Winston Smith che faceva le copertine dei Dead Kennedys. C'era Jamie Hewlett, che era per esempio quello che ai tempi faceva Tank Girl, che poi diventò il creatore grafico di tutta l'immagine dei Gorillaz in qualche modo. Cioè, nel mainstream c'era veramente pochissimo che attingesse a quella roba, e anzi, praticamente niente, perché tutti questi qua in realtà poi difficilmente si possono considerare mainstream, quantomeno quando fanno questo tipo di cose, eccetera. E poi c'era Cristiano Rea, che comunque faceva delle cose che a me mi sembravano incredibilmente ispiratorie, e non capivo perché non c'è stesse niente di suo che si potesse trovare in libreria, manco in rete, eccetera. Poi, peraltro, conoscendo dopo un po' meglio, ho capito che in realtà il contributo che ha dato Cristiano Rea è stato gigantesco dal punto di vista dell'immaginario grafico, non soltanto per quello che riguardava appunto la scena punk, ma anche quello che è stato invece il movimento di quegli anni, le locandine fatte per il Kurdistan, per il Chiapas, tutta una serie di iniziative di tutta un'area dei centri sociali romani che comunque, anche copertine dei dischi, eccetera, che in qualche modo hanno comunque segnato l'impronta comunicativa di quegli anni. E quindi il fatto che oggi, cioè io diciamo che io non avrei fatto sto lavoro se non avessi avuto quel tipo di stimolo lì. E il fatto che oggi finalmente esista qualcosa che raccoglie quell'eredità, cioè tutto quel bagaglio che dei segni, delle locandine che Cristiano ha fatto negli anni, per me è una roba preziosissima, nel senso che è quello che io avrei voluto da ragazzino e che spero possa fare questo effetto sugli altri ragazzini più o meno grandi o piccoli che lo possono vedere oggi. Punk di Cristiano Rea nasce all'interno del catalogo Goodfellas Edizioni e in specifico per la collana Spittle, che proprio con questo libro giunge al 20° titolo in catalogo. È un titolo che segna e sottolinea il nostro percorso alla ricerca all'interno della storia delle controculture, in particolare le controculture musicali legate al rock e fattispecie in specifico sul punk. La nostra casa editrice, Goodfellas Edizioni, ha prestato molta attenzione a questi temi e a queste sottoculture. Ricordo, tra le altre cose, che questo libro che è uscito a inizio gennaio 2023 segue a ruota il libro di Matteo Torcinovici, uscito a ottobre, sulla scena punk inglese, sulla scena punk inglese in particolare del 1977. Don't Call It Punk è un libro che racconta attraverso decine e centinaia di immagini tutto l'anno 1977, i concerti, i gruppi, le fanzine, tutto quello che successe nell'anno che sconvolse la musica e il mondo. A sua volta, Don't Call It Punk seguiva di pochi mesi il libro incredibile curato da Dimmo su In Negazione, un libro di 500 pagine, che racconta anche lì attraverso immagini tutta la storia del gruppo punk hardcore torinese che molti di voi sicuramente conoscono, insomma, per l'importanza che ha avuto per quella scena musicale. E tutti questi libri, e mi piace ricordare adesso che parliamo di punk, di Forte Prenestino e di Roma, anche il libro sul virus, sul centro sociale punk di Milano. Tanto importante per la controcultura punk, per il movimento non solo italiano, un libro che ricostruisce in quel caso, attraverso tutti i volantini e i manifesti usciti a nome virus, la storia del centro sociale milanese. Questi libri, che poi non sono solo grafici, ma in alcuni casi anche scritti o con interviste come Shock Antistatico, piuttosto che la scena post-industriale italiana degli anni Ottanta, piuttosto che il libro di Odesso Rubini sul concerto dei Clash in Piazza Maggiore a Bologna nel 1980, tutti questi libri, da come insomma, potete capire, denotano un percorso, un nostro interesse personale ma culturale che vogliamo portare avanti, che portiamo avanti con queste pubblicazioni, che null'altro sono il tentativo di fermare su carta storie incredibili successe nel nostro paese e non solo, che diversamente rischierebbero di scomparire o di non essere conosciute anche dalle generazioni future e dai più giovani di oggi. La nostra ricerca è questa, e il libro di Cristiano Rea ben testimonia tutto ciò, perché Cristiano Rea, al di fuori di chi ha avuto la fortuna, la possibilità di seguire la scena musicale controculturale romana degli anni 80-90, inizio 2000, non è conosciuto fuori da Roma, dalla città o appunto da chi ha frequentato anche a Roma certe situazioni. E l'introduzione di Zero Calcare sottolinea bene questa importanza, cioè l'importanza che Cristiano ha avuto attraverso il suo segno grafico, attraverso la sua arte, attraverso la sua iniziativa per il movimento musicale, controculturale, sottoculturale romano. E noi pensiamo anche per l'Italia, e da qui la ragione di questo libro. Diamo il buonasera a Cristiano Rea, che per questa radio non è assolutamente un nome sconosciuto, tutt'altro. Cristiano Rea, che non è l'autore proprio del libro Punk, poster e disegni di Cristiano Rea 1977-2022, bensì questo libro parla di lui anche attraverso un'intervista e va a raccontare anche attraverso le parole, per esempio, di Valerio Lazzaretti, tutta quella stagione che va dal Wonna Club fino ai centri sociali. Ciao Cristiano, buonasera e benvenuto. Ciao, buonasera. Tu non sei appunto troppo ospite a Radio Onda Rossa, visto che c'è anche all'interno del libro un tuo, Sì, un omaggio esatto, un assolutamente calendario. parlamentare. Un calendario fatto da te, perché oltre ad essere stato un disegnatore o illustratore, sei tuttora un artista poliedrico, fino appunto a occuparti di grafica. Nel 1992 avevi fatto il calendario per questa radio, che sono passati un po' di anni dal 1992. Sono molto contento di questo libro, come ti dicevo anche poc'anzi, perché in questo libro c'è parte dell'immaginario che ha accompagnato me, come tantissimi altri e altre, per quella stagione degli anni 90, però appunto questo libro va un po' a mettere il punto su quella che è stata la tua produzione, che ha accompagnato i cosiddetti movimenti e sottoculture underground per parecchi anni. Quella del WannaClub, la racconti anche nel libro, fino a quella appunto dei centri sociali, e poi nel libro, attraverso la tua intervista, si racconta anche una Roma, quella degli anni Ottanta, forse troppo poco raccontata, che è una Roma completamente diversa da quella di oggi. Allora, che libro è, innanzitutto? Innanzitutto, sì, va bene, devo Federico Guglielmi, il Esatto. noto giornalista, l'ha spinto a farlo, insomma, mi ha spinto parecchio, perché avevo molti dubbi. Innanzitutto sul problema dell'archivio, con tante cose che mi mancano all'appello, specialmente quelle degli anni Ottanta, insomma, quando ancora non c'erano gli scanner, non c'era modo di avere copie. Va bene, adesso poi la racconterò sempre un po' sta storia, che consegnavo gli originali a chi me li chiedeva e non mi tornavano indietro, insomma, giusto se si ricordavano poi di darmi una locandina stampata. Quindi quando Federico mi ha proposto questa cosa qua, lui si immaginava che ne potesse uscire un tomo di ben più pagine, e in realtà poi l'ho dovuto un attimo prendere e dire: guarda, non è che, insomma, non ho proprio tutto questo materiale a disposizione, però con quello con cui appunto in questi ultimi anni ho rastrellato da amici, da aficionados delle scene musicali, del WONNA o dei centri sociali, abbiamo rimesso in piedi un discorso, insomma, quantomeno che fila, ecco, diciamo, dalle tavole acerbe del 77-78 fino ad arrivare quasi ai bordi di Genova 2001, insomma, ecco lì mi sono fermato nel libro, e come poi uno potrà vedere. Sì, sono molto soddisfatto anche io, perché in effetti, come dici tu, cioè, nel senso, io, come dire, in questi giorni si sprecano delle etichette, cose, insomma, io nell'underground ci sono sempre rimasto, in realtà non sono mai emerso, quindi questo poi, tutto sommato, pensandoci, riflettendoci, non è neanche un male, insomma, ecco, non ho mai avuto immersioni nel mainstream o cose del genere, quindi vabbè, sì, me la prendo come medaglia, me la do io da solo, Non diciamo. sei mai stato personaggio, tanto che ti faccio un esempio, anche frutto ovviamente della mia poca e scarsa conoscenza. Quando pochi anni, qualche anno fa, ora non ricordo che anno era, forse 2017 o 18, al Forte Prenestino ci fu una mostra di tuoi lavori che si chiamava proprio dal WannaClub ai centri sociali, mi sembra, se non sbaglio. Io mi rimasi in fila tutta una serie di cose pensando: ah, vedi, e fu un ripetersi di questa parola tra me e me: ah, vedi, ma pure questo, ma pure questo è il suo, ma vedi pure questo. E quindi ci voleva, no, questo, che tu ritendessi questo filo, perché sei sempre stato poco personaggio per tutti noi che abbiamo attraversato quegli anni, che avevamo di fronte o abbiamo attacchinato quei manifesti, quelle locandine, eccetera. Poi il tuo nome, non, neanche lo conoscevamo. Eh certo, no, no, no, infatti, questo sì, adesso poi va bene, hanno tirato dentro Michele anche, no? Sì, Zero Calcare e esatto. tutto quanto, poverino, sì, riesce fuori un po' questa storia, ma in realtà sì, ho fatto, come dire, la propaganda grafica militante, me la sono fatta poi in silenzio, insomma, come dire, ero disponibile, no? Cioè, mi cercavi e c'ero sempre, insomma. Ci sono stati anche lunghi periodi degli anni 2000 in cui non ho firmato le cose, però le facevo, insomma, no? Come dire, idee per chiunque me lo chiedesse, insomma, semplicemente perché ero in grado di fare una cosa un attimo decente, un po' meglio di un Word, no? Piegato in due, se serviva di fare un pieghevole per qualche cosa di istituzionale, insomma, ci sono sempre stato, insomma, quello è un'altra cosa che tutto sommato, riguardando poi indietro, mi fa piacere, insomma, ecco. Fermiamoci, torniamo anzi alla parola underground, perché appunto lo dicevamo nell'introduzione, hai fatto parte, no? Hai disegnato l'immaginario di alcune culture underground dagli anni 90, dagli anni 80 agli anni 90, ora al tempo dei social essere underground forse è cambiato, è diventato un po' più complicato. Io non so quanto, non lo so perché, però è oggettivamente cambiato, a meno che non decidi di star fuori dal web. È difficile essere underground alla stessa maniera, o sbaglio? No, è così in effetti, anche se poi appunto la presenza sui social o anche un blog che avevo messo su mi ha aiutato moltissimo, per esempio nel riagganciare persone come capita, no? Cioè, del passato e quindi per quel discorso dell'archivio mancante appunto i social sono stati fondamentali, si è aperta. Non lo so, non è che ho fatto una chiamata, però insomma si capiva che avevo bisogno di compensare cose mancanti e quindi lì si è scatenata una bella situazione di affetto, scusa, appunto di avere per dire ammiratori dai tempi del WON, insomma da quegli anni là e che mi hanno aiutato appunto a recuperare anche cose che veramente non ricordavo di aver fatto, insomma, anche perché insomma, sono un po' di anni, quindi, e non, come appunto dice Federico, non sono un buon archivista di me stesso, però erano anche anni in cui si facevano le cose con urgenza, via, cioè disegnavi, non è che ti stavi lì a preoccupare, mi riporti l'originale, oppure no, per dire, non la vivevo in quel modo là, magari adesso mi pento un attimo, però. Era così, si consegnavo e via, insomma, poi il sabato dopo mi vedevo attacchinati al WON, ero soddisfatto anche del mio anonimato, insomma, nessuno sapeva bene che ero io che facevo quella roba là, finché non mi venivano a cercare al limite, come poi è accaduto per alcuni gruppi musicali che mi hanno chiesto collaborazioni o disegnare qualcosa per loro, insomma, andavano da Amerigo e dicevano chi è quello che ha fatto la locandina del concerto nostro e andava così, insomma. C'è anche un racconto di come è cambiato, no? Fare grafica, fare disegno, illustrazione negli anni, come racconti tu, no? Sei passato dal ciclo stile fino al computer. Sì, purtroppo Racconti sì. anche Oggi sono questi passaggi. ludista, spaccherei tutte queste macchine maledette, Macintosh, Apple, tutto quello che ci permette di fare la grafica figa, veramente guarda, ne ho la nausea, infatti appunto da un po' di anni, pochi anni, sono dalla matita a sporcare i fogli con massima soddisfazione e uscire da sto limbo del grafico, non lo so, cioè in tutti questi anni appunto una qualifica vera e propria non ce l'ho mai avuta, come racconto nel libro, solo quando ho lavorato in tipografia, lì ero un grafico, tipografico, quasi un operaio, quindi finalmente, però è stata un po' una roba che non ho un bel ricordo, diciamo, anche perché Roma non mi offriva tanti spazi, ti parlo adesso degli anni 90, insomma, almeno così mi è sembrato a me, diciamo, ecco, per far diventare questa roba un lavoro, quindi perché serviva anche quello, anche se il mio lavoro vero ce l'avevo, insomma, nella cooperativa sociale, assistente domiciliare, quindi grazie a Dio per quello riuscivo a mantenermi. Però, sai, la gente diceva, ah, cazzo, però sei un grafico, disegni, ma ti fai pagare? Va bene. Un'altra storia proprio, che non è andata, va bene così. Allora, tu racconti che ti avvicini al fumetto, al disegno più che al fumetto, anzi, mi correggo, anche perché l'Italia negli anni 70 è sempre stata un terreno molto fertile a livello di disegno barra fumetti, e non parlo soltanto di Il Male, Frigidaire, ma anche delle riviste che tu leggevi. Io poi, per esempio, no, Intrepido, Lancio Storie, tutta questa roba qua, io me ne sono reso conto poi in età adulta quali autori girassero su quelle riviste soltanto quando poi in età adulta mi sono appassionato al fumetto. Invece quelle sono riviste che sono state importanti anche per la tua formazione. Certo, Raccontacelo. tanto perché, cioè, come dire, era più facile comprare Lancio Storie e trovarci dentro appunto tutta la generazione dei disegnatori latinoamericani, no? E la famiglia Breccia, insomma, c'erano dei nomi che disegnavano cose commerciali, che arrivavano anche da noi, però appunto era meglio comprare Lancio Storie, che non mi ricordo quanto costava, piuttosto era meglio. Era più accessibile piuttosto che andarsi a comprare Alter o Linus, che già costavano di più, insomma, anche quello bisogna mettere in conto, sommato. Senti, che Roma era la tua Roma da adolescente che racconti a sprazzi nell'intervista? Che Scusa, non ho capito la domanda. Roma era la tua Roma che racconti quella in cui eri adolescente? Perché la racconti a sprazzi, no? Fa sorridere raccontare tu e i tuoi amici di Ponte Milvio pensando a come si è trasformato quel quadrante di città. Sì, va bene, questo è pane per i denti di Valerio, insomma, sì. Ho vissuto a Roma Nord, quindi con tutte le complicanze di quel periodo, più che altro, che diciamo loro, gli altri, erano molto attivi, insomma, tutto sommato era il 77 anche per loro, quindi si affacciavano queste nuove formazioni da terza posizione in poi, che un po' ti confondevano le idee, insomma, no? Loro non erano più i variolini, si abbigliavano quasi come compagni, e anche la propaganda che facevano, insomma. E in quel momento là mi è arrivata questa botta del punk per uscire fuori un po' dalla stasi, diciamo, e quindi dai blocchi. In quartiere tutti fasci, e la scuola per fortuna, dicevo, tutti compagni, e con un po' di, insomma, di difficoltà, però ho trovato anche sodali, insomma, che hanno recepito il mio messaggio di quel momento, insomma, che tutto sommato, ripensandoci, non so bene neanche io qual era, perché non avevo ancora preso una posizione netta su tutto. Sicuramente c'era l'avversione ai fascisti, perché c'era un quartiere, perché vedevo che atteggiavano, però appunto poi questa voglia di provocare a 15 anni col punk rock mi ha trovato pronto, non so perché. Quindi tra il disegno e la musica, e un po' di ragionamenti sopra, insomma, anche perché all'inizio gente che ho conosciuto, che insomma sembrava appunto sulla linea, che gli erano piaciute le cose del punk rock, però parlavano di apoliticità, di questa roba che non mi è mai piaciuta, no? Che poi sta in cameretta a sentire il disco di Roma, 6-8 giorni, e dire sono punk, quindi ho sentito subito il bisogno di riempirla di contenuti che mi appartenessero, insomma, che erano quelli della realtà che stavo vivendo, quindi va bene, studi la politica, sei nichilista, quello che vuoi, ma non ti puoi tirare fuori da tutto. E quindi, diciamo, l'ho elaborato in una maniera, come dico anche nel libro, un po' cervellotica, però italianizzando, ecco, punk con la A nasce proprio da quei tempi lì, come provocazione per dire non siamo inglesi, ma abbiamo dei problemi qua noi altri. E quindi questa era un po' l'evoluzione sul punk, che poi ho abbandonato subito dopo, insomma, cioè, non avevo nessuna intenzione di immobilizzarmi in una divisa o che cosa, insomma, quindi è stata una spinta molto, insomma, importante per me, quantomeno. Poi se la vai a raccontare a altri che hanno avuto altre vite, dice: ma è punk, ma che è? Va bene, però nel mio percorso è stato così, e devo dire buono, tutto sommato. Gli anni 80 vengono, io continuo, mi dispiace perché gli anni 80 in cui io ero, crescevo, ero adolescente e tutto, Certo. sono degli anni molto poco raccontati. Vengono raccontati come gli anni del riflusso, ma non è stato soltanto quello. Sembra quasi che non ci fossero movimenti, non ci fossero sottoculture, mentre invece gli anni 80 sono stati anche tanto altro. Tu racconti la stagione 80-85 del Wanna Club, e come racconti anche la nascita dei primissimi, lo racconta poi, a dire il vero, lo racconta meglio Valerio Lazzaretti attraverso la nascita dei primissimi spazi occupati Esatto. autogestiti a Roma. Gli anni 80 sono stati appunto anche altro. Proviamo a fare un po', a spendere due parole in un decennio che troppo, troppe volte viene un po' buttato così come. Va bene, sì, calcolando sempre anche che anch'io ero ancora, insomma, no? Giovane, diciamo, per quello che potevo recepire di tutto, forse sì, mettendo in riga qui nel libro un po' la cronologia, quegli anni, cioè, partiamo lì da Wonna, diciamo, no? Come punto di quegli anni lì. La fauna che veniva là era frutto di quella fine degli anni 70, insomma, no? Non voglio dire che eravamo tutti già, come dire, compagni o consapevoli, però quando arrivavano le bande, i frequentatori del Wanna venivano appunto dalle periferie, se facevano questi viaggi con l'autobus venivano da Centocelle, da Torre Maura, e c'erano già i germi, no, di qualcosa di diverso. Insomma, il Wanna in qualche modo, almeno io, però vedendo anche gli altri, non era vissuto come una discoteca, come un luogo estraneo, insomma, era il nostro posto, insomma, era il piacere di poter sentire la musica che ti piace sparata a tutto volume, volendo ballarla, anche alla New Wave, al New Romantic, quello è l'aspetto che mi rimane più, come dire, che rimpiango, ecco, queste adunanze, questo scantinato pieno di pischelli e pischelle dove poteva succedere di tutto, da innamorarsi o fare a botte, va bene, però insomma più che altro c'era il piacere di sentire la musica che ci piaceva, che all'epoca non ce l'offriva nessuno questa scelta, questa opportunità, no? Di avere un luogo dove veramente l'uomo è stato unico per quel tempo breve, che io ci, come dire, devo circostanziare, insomma, ho fatto le cose per loro dall'81 e effettivamente sì, fino all'84-85, poi l'ho lasciato e il Wanna in qualche modo ha avuto anche una sua storia, è diventato un club rock, ci ha avuto dei concerti importanti, ma io non ci stavo più dentro, insomma, né come grafica né come frequentatore. Non voglio Ero già. immaginarmi cosa vuol dire, cioè lo è oggi un viaggio infinito andare da Centocelle al Wanna con i mezzi, pensa nell'81, non me lo voglio neanche Sì, no. immaginare, Infatti, era veramente una sì. roba. Senti Certo. Cristiano, io parlerei con te per ore perché, però andiamo verso la conclusione, che rapporto hai con il fumetto, il disegno, le illustrazioni oggi? Quello contemporaneo intendo, Molto, no, diciamo, non ho quasi rapporti, nel senso che ho smesso di leggere fumetti tanti anni fa, sono passato più ai libri, alla letteratura, e ultimamente seguo appunto sui social un po' di ragazzi che mi piacciono, e chiaramente, cioè, quando escono le cose di Michele me le guardo, me le compro, perché abbiamo questo percorso parallelo, oltre che gli accordi vari, così c'è pure questa passione per il Kurdistan che anch'io ho frequentato parecchi anni fa, quindi quando mi chiede di fare qualcosa su quell'argomento sono sempre contento, perché quella è una scelta militante, insomma, di riaccendere sempre un po' la fiamma, no? Quindi se lo fa Michele ne partono tutti, questo lo ammiro proprio, non ho parole, no? Quanto mi piace come si muove, insomma, per cui nonostante sia travolto poi da, no, da non dico il successo, ma insomma da le mille cose che si muovono intorno quando, quando uno ha un riscontro forte come lui, insomma. Quindi Michele, sì, no, il fumetto mi ha cominciato a, come dire, a, non lo so, se, non, boh, non, non mi esprimo, lasciamo perdere un momento, tanto non è quello. L'illustrazione sì, invece, quindi appunto come dico nel libro, ne cito anche pochi, però insomma ce ne sono, ne vedo tanti, molto bravi e nell'illustrazione forti che riescono a comunicare. È la cosa che mi piace di più, insomma, più che leggere tutta una storia. E per cui sono rimasto affezionato, ecco, al discorso che, se si può dire, del manifesto che ti colpisce, come dico nel libro. Quando facevo le cose anche per Radio Onda Rossa o per i centri sociali, per me il manifesto si doveva vedere anche da seduto sull'autobus, no? Cioè lo dovevi vedere appettinato al muro, chiaro e tondo. Quindi sono contro tutti gli arzigogoli grafici, quella roba lì non mi interessa. Se c'è una sincerità di messaggio, si percepisce, insomma. Su questo sono d'accordissimo. Il manifesto deve essere di poche parole, chiaro, si deve, come dici tu, si deve leggere a prima vista, si deve capire a prima vista, intuire a prima vista. Sì, è una roba un po' antica che però insomma puoi sempre, no, modernizzare in qualche modo. Ora, l'ultima domanda, al di là che inconsapevolmente, più o meno inconsapevolmente, hai disegnato un immaginario, però quanto ce n'è bisogno attraversando le sottoculture che venga definito un immaginario in cui rispecchiarsi o affidarsi o attraverso cui nutrirsi? Alla luce di questo, alla luce del libro, me ne sono convinto di più anch'io, insomma, perché poi alla fine è anche un bello oggetto, capito? Però, cioè, il libro, non so, con le storie nostre da tenere lì e tirare fuori ogni tanto, andare a rivedere la data, a raccontarsi qualcosa, per esempio, appunto, al di là dell'immaginario delle sottoculture musicali, ci ho tenuto a salvare dall'autocritica che mi imponeva di tagliare tutta la roba, quasi tutte le cose degli anni 90, le cose fatte col computer, invece ci ho tenuto a metterci almeno delle tracce, appunto, come il Summit di Napoli, l'assalto alle Turkish Airlines, che sono pezzi della nostra storia, insomma, quindi anche se magari graficamente non è la cosa che mi è riuscita meglio, però ce l'ho voluta mettere, perché pensando proprio a questo, che non è il libro del grande illustratore o di Cristiano Rea, è anche un libro nostro, come dicevi tu all'inizio, è il libro anche nostro, insomma. Sono d'accordo, è un libro che racconta una storia di, che attraverso quelle immagini racconta la storia di molte e molte di noi. All'interno del tuo libro c'è un poster che io per anni ho fatto il filo a due miei amici che ci avevano attaccato in cantina, che è il poster del concerto di Massilia Sound System, ma per anni mi sono implementato di darlo. Esattamente, perché... sì, la qualità per esempio di quella riproduzione lì e con quel, vabbè, quel blu così non era della migliore, ma ce l'ho voluta mettere, assolutamente sì, anche perché poi se nella Massilia ci stavano, suonavano gli AK-47 che sono dei cari amici, quindi dico, il discorso è stato anche un po' quello, se dentro il libro, voglio dire, quando nell'intervista non cito delle situazioni, però alcune situazioni stanno nei manifesti, no? Nei volantini, che non c'era bisogno di spendere altre parole, uno se le trova là. Quindi anche appunto quello lì del Marsiglia, c'è il fatto che era il concerto fatto al Puccini, no? Per esempio, sì. Che in un certo momento è stato un posto. Sì. Per pochi mesi è stato un posto dove, tra l'altro, ci sono stati, esatto, anche dei concerti che per me rimangono appunto quelli impressi nella mia memoria. Cristiano, noi chiudiamo sempre l'intervista chiedendo ai nostri interlocutori e interlocutrici un libro da consigliare, qualsiasi, è una lettura che hai fatto, che vorresti consigliare a chi ci ascolta. Quindi se ti... dunque, ti dirò, guarda, consigliare, lo devo ancora iniziare, però Mi sono da poco regalato la biografia di Michel Pergolani, che è un personaggio appunto che è anche citato nel libro, che fu l'artefice di questo servizio clamoroso per l'altra domenica, se non sbaglio. Da Londra stava lì sotto il palco dei Sex Pistols, sto ex Cecchettone, credo, insomma, devo ancora leggere. Mi sono regalato questa cosa qui, insomma, che si chiama Nudo, Michel Pergolani. Va bene, non so se consigliarlo perché lo devo ancora iniziare, diciamo. Cristiano, io ti mando un abbraccio e ti dico soprattutto grazie, grazie sia del libro, della disponibilità Grazie a voi. e per aver disegnato un immaginario di tante e tanti di noi. D'accordo, Grazie grazie. Cristiano, un Buonasera. abbraccio, Ciao, ciao ciao, ciao ciao. a presto.